prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aspetta. Se no, ti fischia tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Usando un Italjet, sì, vabbè, Italjet. Non scherzare. Si chiama... 1. Le XN VV 898 10 watt V e U veicolare. Già va bene Ale, già va bene, mi senti tu? Ti sento, non ti preoccupare. Antonio sono, questo qua è il Baufeng, è quello nuovo. Oh Anto, mi senti a me? Sì che ti sento Lu, come mi senti con questo Baufeng? Forte e chiaro, fondo scala, sì. Questa è una cannonata, Questo è quello l'osso multicato di Giamma. Eia, quello senza display, Ah, sta una cannonata, arrivi fortissimo. E tu bene mi ascolti, Anto? Sì, sì, ti ascolto bene io. Sei fortissimo anche tu. Dimmi anche tu, forte e forte. Con voi arriva un po' frusciato. Quanto scala arrivo io? Ho detto che arrivi un po' frusciato, con voi. Un po' frusciato arrivo io. Ehi, esagerato. Watt, cosa vuoi di più? Aspetta che ha colato, va? Se ti faccio sentire il resto. Guarda, questo è l'altro Baufeng, com'è? Va bene, c'è uno che è l'altro. Va bene anche questo, no? Si dice va rubi di pipa. Io ho voglia. È una cannonata. Però quello là c'ha la tenna ancora più corta che se arrivi una cannonata, Ti ascolto benissimo, guarda. Però... di lusso, Sognieva che prendi. Tro. Non fa niente. Acqua niente, la verità, Non sta piovendo niente. Ma cos'è il Baufeng tipo quello che c'ho io, quello che stiamo dando, Ale? No, io non sto usando il Baufeng, sto usando il VU, quello mobile, capito? Quella macchina, hai capito? Non è il Baufeng. Forza! Se funziona, quanto è l'altro funziona? Devi capire che se lo metti in macchina questo, da te, dove sei tu, questo è un demonio, capito? È perfetto. Ora provo a cambiare l'antenna. Se metti la magnetica, cazzo, dove sei tu, lo sai dove è, dove ci sono questo. E dici, vatti questo qui. Si chiama, te lo dico subito, L, E. IEXENVVV 898 e c'è scritto 10 watt c'è scritto, quindi figurati tu. Eia, guarda a vedere Ale se ti arrivo meglio adesso con l'antenna più lunga. E a voglia. Eia, cappa. Vabbè, ma sanno sempre della stessa famiglia anche quello che hai tu. Luca, bene mi senti? Ho attaccato l'antenna dell'altro Baufeng. Eia, fondo scala. Chiappa, già funziona ghisa, funziona ghisa, che sono aggannonata, E l'altro, Antu, l'hai riparato, l'altro arancione? Sì, sì, te l'ho fatto sentire poco fa. E cosa gli hai messo? Eia, un po' su, l'avevo saggiato, fatto, un po' di pubblicità. Funzioni. Capito che sempre questo apparato qua, il cinese. 10 watt a voglia, Guarda a vedere, Lu. Sei a forte e chiaro. E questo è quello riparato, amico. Attenzione. Che ho voglia. Le antenne ho scambiato, dai. Sì, si va più che bene. E questo qua è l'altro, è quello senza display. Tutte e due vanno bene, Antu, la grande. È una buona, già sono buoni già. Sì, mi voglio prendere l'antenna più lunga, mi voglio comprare, ma l'ho vista su eBay, l'ho vista. Ma quella telescopica? Eia! Che te ne puoi comprare? Dimmi tu. Ah, non costa neanche tanto, non costa. Dice che pompa quella lì, mi hanno detto. Ehi, di luce, mi sta facendo l'orario con la futura mamma.